Cuando esponda la luna a marechiare, pure le pese se fan el amor. Me rebota la luna del mar per la priesa cogna do colores. Cuando esponda la luna a marechiare, a marechiare, si sta la fenesta, la passione bianca murmurea, un garafano adora. In dalla testa passa l'acqua per sotto murmurea, a marecchiare c'è sta una finestra. Ah, ah, a marecchiare, a marecchiare c'è sta una finestra. Ti dice Calistella solucende, non sappi tu che cazzo ti ne impronte. Si tu stella non sa giù sulla mente, d'indolo a cuore tengo una risponde. Chi dice Calistella solucende? Se state caroli, all'aria e dolce quanto mai, quanto tempo ha già aspettato. Tassire una chitarra io ho portato, tassire una chitarra io ho portato. Seta di caroni all'aria dolce. O seta te, seta te caroli, con aria e voce.